in primo piano. Buongiorno a tutti, eccoci qui a leggere i giornali di questa mattina, sui quali naturalmente non troverete nulla. Non troverete le notizie che riguardano il terremoto drammatico di questa notte in Abruzzo, le notizie le sentirete, le avete sentite dagli aggiornamenti del GR, le sentirete ancora nei prossimi minuti. Troverete invece sui giornali di questa mattina il vertice di Praga, con la spaccatura tra Stati Uniti ed Europa sull'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Troverete il lancio del missile da parte della Corea del Nord e l'importante discorso di Barack Obama sulle armi nucleari. Vediamo adesso un po' i titoli di apertura dei giornali di oggi. Il Corriere della Sera apre con "La Turchia divide Europa e USA, spaccatura al vertice di Praga. Berlusconi sì all'ingresso, troveremo un accordo. L'America entri nella UE, no di Sarkozy e Merkel". È richiamata anche la Corea del Nord con la fotografia a centropagina. La Corea del Nord lancia un missile, Obama mai più armi atomiche. A centropagina invece torna la politica italiana, l'attacco di Franceschini, Di Pietro, voti buttati. La replica, il leader del PD è Ponzio Pilato. E infine una notizia che riguarda la ricerca scientifica. A Milano il doping che salva la vita, al Niguarda l'EPO a chi subisce incidenti gravi. Anche Repubblica apre con le notizie che sono arrivate dal vertice di Praga. Turchia, no di Sarkozy a Obama, scontro sull'ingresso nella UE, Berlusconi, mi hanno invitato alla Casa Bianca. Il presidente francese replica al leader USA, spetta all'Europa decidere. Il cavaliere, cerchiamo un compromesso. A centropagina la foto grande, molto bella, del discorso di Obama a Praga davanti a migliaia di persone. L'America chiede sanzioni contro Pyongyang, la Corea lancia il missile, sfida il mondo, il presidente USA, basta armi nucleari. A centropagina anche invece una notizia che riguarda l'Italia, sul web gli stipendi dei manager pubblici, è l'ultima iniziativa del ministro Brunetta, così i cittadini potranno valutare. La Stampa, Obama mai più atomiche. Sarkozy e Merkel contro gli USA per l'ingresso della Turchia nella UE, la Corea del Nord sfida il mondo e lancia il razzo, test fallito, Berlusconi, Barack mi ha invitato alla Casa Bianca. È richiamata con la fotografia un'inchiesta della Stampa su Fort Knox, poi se avremo tempo la vedremo. Fort Knox, dov'è l'oro? Lingotti forse venduti per sostenere il dollaro. Nel taglio basso della Stampa, uno studente ogni 10 usa psicofarmaci a scuola, stimolo per le interrogazioni e per superare le liti con i genitori. Il Sole 24 Ore del lunedì, il titolo di apertura è "Tutti gli affari dei sindaci, aziende pubbliche, aggiornato il censimento delle partecipazioni di enti locali e altre amministrazioni, quote in circa 7.000 società e consorzi con 23.000 consiglieri". Il Giornale invece apre con una notizia, un'inchiesta originale, altri 4.500 posti di lavoro, boom di offerte dall'energia. Servono tecnici, ingegneri e addetti alle vendite, ma ci sono occasioni in tutti i settori. Ecco indirizzi e telefoni delle aziende che assumono. Ma è richiamato in grande evidenza un'intervista del Giornale. Il titolo è "Io, manager, fiero dei miei 8 milioni l'anno". Parla Luca Maiocchi, il secondo più pagato d'Italia. "Guadagno tanto e non mi vergogno. Da noi si accettano i super compensi di calciatori e artisti, non quelli dei dirigenti d'azienda. Questa caccia alle streghe è intollerabile". Poi se avremo tempo ne leggeremo qualche parte. Il Messaggero, ancora la Turchia. "Turchia nella UE, appello USA. Il presidente americano va ancorata all'Occidente. No di Sarkozy, cauta la Merkel. Berlusconi, noi per primi favorevoli. Obama mi ha invitato a Washington". Il Messaggero, a centropagina, ha la fotografia del campionato di calcio con la vittoria della Roma, doppio rigore di Totti e la Roma riparte, Lazio KO tutti in ritiro. E una notizia di cronaca, lite per una ragazza in discoteca, accoltellato un giovane, è grave. Questo è avvenuto a Roma. L'Unità torna invece sul discorso di Obama, mai più l'atomica, il discorso di Praga, citate le parole del presidente americano, è l'era della pace, gli USA pronti a smantellare gli arsenali. Richiamata anche la politica italiana, Franceschini, premier nervoso, ha finito un ciclo. Il Giorno invece apre con una notizia che riguarda l'ex premier britannico Tony Blair. Paperone Blair all'ex premier inglese il record per ogni conferenza, 7.000 euro al minuto, e Il Giorno fa i conti in tasca a Blair. Il Secolo XIX, di nuovo la Turchia, Turchia nell'Europa, Obama sì, Sarkozy no, Germania cauta, Berlusconi serve un compromesso. E infine la Gazzetta dello Sport apre invece sull'Inter. Inter forza 9, la capolista passa a Udine e ipoteca lo scudetto. Juve frenata dal Chievo di Pellissier, tripletta. Mourinho, bravo Quagliariella, lo vorrei con noi. A questo punto ricominciamo a guardare i giornali approfondendo qualcuno degli argomenti che abbiamo visto trattati nei titoli di apertura. Partirei dalla Turchia, dal vertice di Praga e da quello che è successo ieri sull'Europa. Prendo il Corriere della Sera, vi ricordo il titolo: la Turchia divide Europa e USA, contrapposizione frontale al vertice tra Unione Europea e Stati Uniti a Praga, tra la Casa Bianca e l'asse Francia-Germania. Tema: la Turchia e il suo ingresso nell'UE. Per il presidente americano Barack Obama, procedere verso l'adesione sarebbe un segnale importante per avvicinare i musulmani come nostri amici. Ma il leader francese Nicolas Sarkozy non ci sta. Io sono sempre stato contrario a questa adesione e continuerò a esserlo. Riserve anche dal cancelliere Angela Merkel. Il Corriere della Sera su questo tema intervista Emma Bonino. Il titolo dell'intervista a pagina 5 è: Bonino, l'Europa rischia una chiusura nazionalista, la leader radicale è per l'allargamento, vediamo che cosa dice. Invece di prendere la crisi come un'opportunità, l'Europa scivola verso una preoccupante visione nazionalista. La questione della Turchia dimostrerà se si aprirà al mondo o si chiuderà, dice Emma Bonino, radicale, eletta senatrice nelle liste del Partito Democratico. La vicepresidente del Senato ieri si stava occupando di come evitare che tra poco a Kabul entri in vigore la legge sull'obbligo al sesso con i mariti per le sciite afghane non consenzienti. Ma Emma Bonino fa parte anche della commissione guidata dal finlandese Martti Ahtisaari, che compie un monitoraggio sulle riforme varate dai turchi per entrare nell'UE, e aveva presente la divergenza su Ankara tra il presidente degli Stati Uniti, quello della Francia e la cancelliera tedesca. Barack Obama a Praga, e la domanda del giornalista Maurizio Caprara che l'ha intervista, ha ribadito la richiesta americana di aprire l'UE all'ingresso della Turchia. Il francese Sarkozy ha confermato di essere contrario, la tedesca Angela Merkel preferirebbe una meno impegnativa partnership privilegiata. Secondo lei chi ha ragione? Seguendo una linea esistita da 40 anni, dice Emma Bonino, l'Europa in Consiglio europei del 99 e del 2002 ha riconosciuto l'eleggibilità della Turchia all'ingresso nell'Unione, tant'è che nel 2005 sono stati avviati i negoziati per l'adesione, non per una partnership. Obama ne prende atto, gli USA sono da sempre a favore. Le reazioni rendono evidenti cose note nei corridoi. Le riserve francese e tedesca, chiede il giornalista. Già, l'idea della partnership fu battuta nel Consiglio europeo che diede via libera ai negoziati. Sarkozy poi li ha rallentati, non fermati. Sarebbe drammatico se dopo un processo decennale l'Europa dicesse: ci siamo sbagliati. Su questo tema anche l'articolo di fondo di Repubblica di Bernardo Valli, la disputa su Ankara, la forte seduzione esercitata da Barack Obama durante il periplo europeo, da Londra a Strasburgo, da Kiel a Baden-Baden, non si è certo spenta a Praga, ma alla vigilia di raggiungere la Turchia, che sarà l'ultima tappa, quella seduzione si è rivelata meno efficace. Continua Valli, diciamo che ha dimostrato i suoi limiti. Prima di partire per Istanbul, prestigioso balcone sul mondo musulmano, Obama ha sostenuto l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, ben sapendo quante controversie susciti la questione nelle nostre capitali e non ignorando lo stallo dei negoziati cominciati 4 anni fa. Nonostante questo, il neopresidente americano ha rilanciato l'idea, una delle poche condivise con il suo predecessore, e ha affrontato il rifiuto netto di Sarkozy e quello più sfumato di Angela Merkel, i quali sono arrivati diversi ma puntuali. Il discorso di Obama sulle armi atomiche e il lancio del missile coreano lo vediamo sulla Stampa, dove Maurizio Molinari racconta la storia con un bel retroscena, e la racconta così. Il lancio del missile nordcoreano sveglia in piena notte a Praga Barack Obama, che reagisce rimettendo mano al discorso in programma, ammonendo Pyongyang. Le violazioni saranno punite. Sono le 4:30 del mattino quando il portavoce Robert Gibbs sveglia il presidente. L'hanno lanciato. In quel momento le informazioni sono poche. Il presidente si prepara a dare l'ordine di abbattere il missile se necessario. È la prima volta che Obama prova di persona il sistema di comunicazioni di emergenza messo a punto dopo l'11 settembre 2001. Quando a Praga non è ancora l'alba, i tecnici gli mostrano attraverso il circuito audio-video più protetto del pianeta i dettagli della mossa coreana: il lancio, la parabola del missile fino alla caduta nell'oceano, la violazione dello spazio giapponese. Il pezzo racconta poi tutta la storia di come Obama abbia deciso di aggiornare il suo discorso già previsto sulle armi atomiche a Praga in seguito alla decisione nordcoreana. Vediamo adesso qualche notizia di politica italiana, la prendiamo dal Corriere della Sera, Franceschini, il titolo è L'attacco di Franceschini, Di Pietro, voti buttati. Che cosa dice il Corriere della Sera? Anche Antonio Di Pietro, insieme a Silvio Berlusconi, nel mirino di Dario Franceschini. Il segretario del PD ha attaccato il leader dell'Italia dei Valori per la decisione di candidarsi alle elezioni europee. Purtroppo adesso anche lui, oltre a Berlusconi, chiede preferenze per andare in un posto dal quale dovrà dimettersi un minuto dopo essere stato eletto, ha detto Franceschini. E ha aggiunto: questi sono voti buttati via. Noi manderemo a Strasburgo solo persone che ci resteranno per tutto il mandato. Di Pietro, Dario e Ponzio Pilato. Vediamo che cos'altro ha detto Franceschini ieri. È la prima volta che il nuovo segretario del PD attacca in modo così duro Antonio Di Pietro, scelta che almeno su questo tema, quello delle candidature europee, non sembra disorientare il partito, anzi riscuote un nutrito consenso. Ma Franceschini decide di lanciare una nuova campagna anche sul fronte degli alti redditi, proponendo di far pagare 2 punti di IRPEF in più a chi supera i 120.000 euro annui, fondi da devolvere alla lotta contro la povertà. Se ne ricaverebbero solo nel 2009 circa 500 milioni di euro, dice Franceschini, da destinare alle associazioni laiche e cattoliche che si occupano dei poveri. Invece vediamo su Repubblica Brunetta, che cosa, qual è l'ultima iniziativa del ministro Brunetta. Sul web gli stipendi dei manager pubblici. Il ministro Brunetta ha infatti annunciato che da oggi darà il via a una banca dati in cui saranno pubblicati i guadagni degli amministratori per un'operazione di trasparenza. I cittadini, ha spiegato il ministro, potranno valutare e sapere anche quale tipo di aziende pubbliche operano nel loro territorio, che cosa fanno, quanti sono gli amministratori. L'articolo prosegue poi a pagina 11 di Repubblica. Operazione trasparenza su tutte le aziende partecipate da enti pubblici. Oggi il Ministero della Pubblica Amministrazione pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle società private in cui una quota del capitale è in mano allo Stato centrale o a regioni, province e comuni. Per ognuna sarà indicato il peso che tale partecipazione ha sul bilancio dell'amministrazione coinvolta, il denaro impegnato e soprattutto i compensi che percepiscono i manager e i rappresentanti dei CDA. Brunetta rende accessibili i dati che gli enti pubblici devono comunicare al suo ministero secondo una norma voluta dalla finanziaria 2007. Entro il 30 aprile di ogni anno si dovrebbe avere un quadro completo dei bilanci dalle grandi partecipate pubbliche, Eni, Enel, Finmeccanica, alle municipalizzate delle grandi città. Più o meno lo stesso argomento è trattato anche dall'apertura del Sole del lunedì. Tutti gli affari dei sindaci, sono quasi 7.000 i consorzi e le società che hanno in mano i servizi pubblici locali, dalla gestione del ciclo dell'acqua alla raccolta dei rifiuti, dall'erogazione del gas ai trasporti, per citarne solo alcuni. Un fitto groviglio di enti partecipati soprattutto dalle amministrazioni locali, mandato avanti da un folto drappello di oltre 23.000 consiglieri di amministrazione. Una fotografia scattata dalla funzione pubblica, la quale per legge devono essere comunicati i dati sulle partecipazioni nelle public utilities, dati che da oggi Brunetta, in nome della trasparenza, ha deciso di pubblicare sul sito del proprio ministero. E per rimanere in tema di stipendi dei manager, Vi segnalo ancora l'intervista che è a pagina 9 del giornale a Luca Maiocchi, l'amministratore delegato di Seat Pagine Gialle. Io, manager da 8 milioni, dico occhio a chi demonizza. Il totale del 2008 fa 7,97, sono milioni di euro e rappresentano il compenso incassato da Luca Maiocchi, amministratore delegato di Seat Pagine Gialle. Lui non si vergogna e dice che in Italia siamo abituati ad accettare mega retribuzioni per gli artisti e i calciatori, ma non per i manager. Con questo direi che la rassegna stampa per oggi si chiude. Noi ci aggiorniamo domani.